le previsioni del governo sull'IMU sono state, per così dire, superate, ci dice Repubblica. IMU, boom, a sorpresa, incassati 24 miliardi. Allora abbiamo deciso di tornare su questo tema perché è un tema sul quale lo spunto era quello internazionale che avete visto nei giorni scorsi, quello di Gérard Depardieu che sbatte la porta alla Francia perché lo hanno insultato al governo, perché con la patrimonialina o patrimonialona di Hollande aggiuntivo ha deciso di prendere, come tanti altri, la via del Belgio, e di fronte agli insulti che gli sono pure venuti dai componenti del governo guidato da François Hollande, ieri ha scritto una lettera incendiaria dicendo: io sarei miserabile. Ma come miserabile? Come miserabile? Sono nato nel 1948, scrive Gérard Depardieu. Ho cominciato a lavorare quando avevo 14 anni come tipografo, come magazziniere e poi come artista drammatico. Ho sempre pagato le tasse e le imposte, di qualsiasi aliquota e di qualsiasi governo, e in nessun momento non ho ottemperato ai miei doveri. I film storici che ho interpretato sono la testimonianza del mio amore per la Francia e per la sua storia. Personaggi più illustri di me sono stati esiliati o hanno abbandonato il nostro paese. Sfortunatamente non ho più nulla da fare qua, ma continuerò ad amare i francesi e il pubblico con cui ho condiviso molte emozioni. Parto perché, considerate che il successo, la creazione, i talenti, in pratica la differenza, devono essere sanzionati. Non chiedo approvazione, ma potreste almeno rispettarmi. Tutti coloro che hanno lasciato la Francia non sono stati insultati, come il sottoscritto, e non devo giustificare le ragioni della mia scelta, che sono tante e intime. Parto dopo aver pagato nel 2012 l'85% di imposte sul reddito. Ma voglio conservare lo spirito di questa Francia, che era bella e che spero resterà tale. Vi restituirò il mio passaporto, la mia tessera della mutua, di cui non mi sono mai servito. Non abbiamo più la stessa patria. Io sono un vero europeo, un cittadino del mondo, come mi ha sempre inculcato mio padre, ma trovo miserabile l'accanimento della giustizia nei confronti di mio figlio Guillaume, componente del governo aveva dato del miserabile a Depardieu, del mio figlio, giudicato dai giudici che l'hanno condannato quando era ancora un ragazzo a 3 anni di prigione per 2 grammi di eroina, quando molti altri venivano risparmiati per reati ben più gravi. Non condanno tutti quelli che hanno il colesterolo alto, la pressione alta, il diabete, quelli che bevono troppo alcol o che si addormentano sul loro motorino. Sono uno di loro, come i vostri cari media amano sempre ripetere. Ma non ho mai ammazzato nessuno. Non penso di avere dei demeriti. Ho pagato 145 milioni di euro di imposte in 45 anni. Ho dato lavoro a 80 persone nelle aziende che sono state create per loro e gestite da loro. Non sono qui per lamentarmi, né per vantarmi, ma rifiuto il termine di miserabile col quale mi avete appellato. Chi siete voi per giudicarmi così? Glielo chiedo, signor Rayrault, primo ministro del signor Hollande, vi chiedo: ma chi siete voi? Malgrado i miei eccessi, il mio appetito, il mio amore per la vita, sono un essere libero, signore, e non voglio essere maleducato. Firmato Gérard Depardieu. Allora, questa è la lettera con cui appunto Depardieu ha riconsegnato il passaporto, ed è una lettera scritta a Jean-Marc Ayrault, che è il primo ministro appunto francese, il primo ministro del governo a cui nominato da François Hollande. Allora, commento a questa lettera, prima di arrivare invece alle cifre che Confartigianato ci ha dato 2 giorni fa sull'aggiornamento della pressione fiscale in quest'ultimo anno, con più 22,6% in un anno di pressione fiscale per le piccole e medie imprese italiane, un aumento delle tasse che costringe il 58% delle imprese a chiedere prestiti e dilazioni di pagamenti e il 61% che rinuncia a investire e ritarda ulteriormente i pagamenti dei fornitori. Questa è la condizione che viene spacciata come virtù di finanza pubblica che dovrebbe proseguire, e a mio giudizio non lo è affatto. Non lo è affatto, è la continuazione della linea Tremonti, altrettanto sbagliata, ancora più sbagliata. Ma detto questo, iniziamo da questa lettera e da quella, e dalla riflessione che evoca. È sbagliata la lettera di Gérard Depardieu? Ha ragione chi lo ha appellato come miserabile? È un diritto o no quello di votare anche con i piedi e andarsene quando la pressione fiscale dello Stato impazzisce? Ecco, chiediamolo a Richard Desé, che è corrispondente di Figaro in Italia, per chiedergli non solo come è stata presa in Francia, più dal punto di vista del colore, questa lettera di Gérard Depardieu, ma anche come la pensano i suoi lettori. Il Figaro, lo ricordo, è un organo di informazione con un pubblico più moderato, diciamo così. Allora, buongiorno e grazie di essere con noi innanzitutto. Buongiorno. Allora, come è stata presa questa lettera di Depardieu, e i lettori vostri che ne pensano della patrimoniale? I lettori, sì. L'80% danno ragione a Depardieu, ovviamente, contro il governo socialista. Detto questo, neanche Depardieu è bianco come neve, al contrario. C'è questa legge che costringe tutti quelli che guadagnano oltre il milione a pagare il 75% del loro reddito al fisco, e questo qua lui non l'ha tollerato. E dunque in un primo momento ha detto che si stabiliva in Belgio. E poi, essendo stato, come ha detto, chiamato miserevole da Jean-Marc Ayrault, il primo ministro, ha fatto una lettera aperta nella quale dice che non si sente più francese e che restituirà il suo passaporto. E la cosa è che Obelix, che va in Belgio, e Asterix, l'altro eroe del fumetti, che è già stabilito a Londra da un anno, Clavier si è stabilito a Londra da un anno, ovviamente sono i due simboli della Francia che scappano. Ovvio che tutti, quando ha detto questo, tutti i ministri francesi hanno gridato contro Depardieu, che è un personaggio eccentrico, che già ha tanti problemi con la giustizia francese, ha urinato in un aereo, è caduto in Vespa con un tasso di alcol nel sangue altissimo, dunque ha dei processi un po' dappertutto. Ma al di là di questo, Depardieu è un imprenditore che fa lavorare 80 persone, gestisce due ristoranti, un pescivendolo, tanti vigneti, e lui dice che forse prenderà la decisione di abbandonare tutte le sue attività in Francia. Detto questo, la sua scelta di andare a vivere in Belgio è molto complicata, perché dovrà vivere materialmente per 6 mesi all'anno in Belgio, lui che è un uomo mondano, che ama Parigi e Saint-Germain, sarà difficile per lui. E su questo si può dire che il fisco francese sarà stretto, osserverà e conterà giorno dopo giorno quanti giorni passa in Belgio, sarà difficile. E poi il paesino dove si è stabilito non ha niente a che vedere con Saint-Germain, è piuttosto un paese di campagna. Dunque sarà per lui più che una fuga, sarà un esilio. L'unico che non ha criticato Depardieu nel governo è stato, quando è stato pubblicato la lettera aperta, è François Hollande. Ha detto che lui non voleva dire niente su Depardieu, ma soltanto ringraziato i ricchi, i grandi ricchi francesi che pagano le loro imposte in Francia. E questo è il caso, per esempio, di Bernard Arnault, che anche lui il presidente di LVMH, il gruppo di lusso, che si è stabilito a Londra 3-4 mesi fa, ma che ha detto che lui continuerà a pagare le sue imposte in Francia. C'è una cosa aneddotica, ma sintomatica, è che Yannick Noah, il campione di tennis francese, lui 15 anni fa si è stabilito in Svizzera, e però non era ha infranto i 6 mesi, è ritornato in Francia, ha vissuto in Francia, era un falso spostamento e il fisco ha verificato, ma ancora una volta, giorno dopo giorno, la sua permanenza in Svizzera, e adesso gli richiede 1 milione di euro, è stato condannato a pagarlo, ma essendo Yannick Noah una coqueluche, un eroe della sinistra, non ha ancora pagato. Allora, posso chiederti il consenso nei sondaggi dei francesi all'imposta patrimoniale di queste proporzioni? Il 75% diventa l'aliquota marginale che scatta su tutto ciò che va oltre il milione di euro annuo per le persone fisiche. È ancora elevata nei sondaggi e i francesi a maggioranza nei sondaggi si dicono favorevoli oppure no? No, i francesi, guardi che la misura riguarda un numero molto limitato. È una misura presa, annunciata durante la campagna elettorale da François Hollande, che è spettacolare, ma sono 3.000, 4.000 che sono che cadono sotto questa dicitura. Sono 75% di reddito e non di patrimonio. Sì, sì, certo. Dunque, ovviamente qui la Francia si divide in due per motivi ideologici. I socialisti e gli elettori di sinistra applaudono a nome della giustizia sociale e quelli di destra dicono: ah, ma così perdiamo tutte le nostre grandi fortune, tutti vanno all'estero, andranno all'estero. E poi è una misura simbolica, ma non molto precisa, perché è ovvio che i grandi ricchi, coloro che hanno delle fortune immense, hanno già dei modi per scappare a questo, tramite trust fund, tramite foundation e tutto quanto. Dunque è più una misura emblematica che reale, di reale importanza. Allora, io ringrazio per questa testimonianza Richard Desé di Figaro. Come vedete, la patrimoniale, che diventa inevitabilmente, visto il vantaggio che ha il PD nei sondaggi, il tema anche delle prossime elezioni. Vedremo se qui sarà una patrimonialina per poche migliaia di persone, una cosa simbolica, da 1,5 miliardi di euro in più l'anno, poca roba rispetto ai 24 miliardi incassati con l'IMU, oppure se sarà l'obbligo di acquisto dei titoli pubblici, come io credo, e me ne informo da giornalista, per così dire. Vedremo anche quale sarà, per così dire, nei prossimi giorni la tendenza, perché oggi la tendenza di vedere veramente influenzato per via del fattore Monti l'andamento che nei sondaggi sembrava prendere molto corpo dalla vittoria del PD è molto aperto. Oggi trovate sugli strumenti di informazione opinioni delle più varie e diverse, per esempio Pietro Ichino, senatore del PD che fa parte della pattuglia del PD esigua ma combattiva pro Monti, oggi scrive, è ripreso anzi da Italia Oggi, ma l'ha scritto sul suo sito ieri www.pietroichino.it, che il 40% degli elettori del PD ora guarda con interesse a Monti. Diciamo che Pietro Ichino lo fa da fan, perché a oggi trovate sempre sui giornali le stime invece degli maggiori istituti di sondaggio su la lista del professore, se ci fosse, sono le più varie diverse, perché Antonio Noto di PR Marketing, qui riprendo dalla Stampa, pagina 4, attribuisce l'11% di voti sul totale dei votanti attribuiti a una lista Monti. Alessandra Ghisneri, Euromedia Research, che è, diciamo, la sondaggista di solito di riferimento del centro-destra di Berlusconi, al contrario passa da questo 11% a un 20%. Non è così, perché lei Alessandra Ghisneri, al contrario, mi sembrava strano dopo che l'avevo detto, parla di 20 punti persi da Monti, dal premier, di fiducia. Quindi Alessandra Ghisneri è quella che gliene attribuisce ancora meno, per così dire. Renato Meinheimer invece gliene attribuisce il 15% se si candida a premier. Allora, come vedete, si tratta di forbici per il momento ancora significativamente molto più basse dei voti attribuiti al PD. Questo spiega perché ieri Bersani nel colloquio con Monti sia rimasto molto molto molto freddo e abbia sottolineato che lui si occupa di varare, come è avvenuto poi in direzione, le norme per le primarie dei suoi parlamentari e poi, quando il signor Monti ci avrà pensato bene, lo dica. Ed è per questo che Napolitano ha detto: ragazzi, ci sarò sempre io a dare l'incarico. E questa battuta è rivolta a Monti, come dire: ti stai comportando davvero molto molto molto male. Abbiamo con noi appunto il nuovo presidente di Confartigianato, che saluto e ringrazio di essere qui al microfono di Radio 24. Buongiorno Giorgio Merletti. Buongiorno a lei, grazie. Allora, Giorgio Merletti, qualche parola per così dire di presentazione. È un lombardo, nato al Varesotto, è un architetto, è un imprenditore nel settore della falegnameria da molti anni naturalmente impegnato in ambito associativo, prima in Confartigianato, Varese, poi Lombardia, eccetera eccetera. Guerrini, Giorgio Guerrini, che ha appena terminato il suo incarico di presidenza, lo aveva come vicepresidente vicario, quindi aveva la delega alle relazioni sindacali, e adesso appunto succede a Giorgio Guerrini. Proprio pochi giorni fa è stato chiamato alla guida del Confartigianato Imprese. Io notoriamente ad artigiani e commercianti tento di dedicare grandissima attenzione, lo considero come tutta la piccola impresa la vera spina dorsale del nostro sistema del mercato domestico, e credo che i dati attestino, lo dico a chi è in ascolto, che il più di questa crisi, la parte più terribile di discontinuità di lavoro impresa è esattamente accentrata su questi tre quarti del PIL che sono su scambio di domanda e offerta di beni e servizi per il mercato domestico, e lì c'è un problema fondamentale della tenuta di questo tipo di imprese. Noi dobbiamo tifare certo per chi fa export, che continua ad avere un valore superiore a quando c'erano 30 punti di produzione industriale in più, ma dobbiamo contemporaneamente considerare che la strage di impresa di lavoro, di reddito e patrimonio che è in atto nella piccolissima impresa italiana, è il grande problema del quale venire a capo, certo aumentandone la scala dimensionale, la patrimonializzazione, ma anche non facendo finta di non vedere che lo Stato, dico, la sua pretesa fiscale sta facendo strage. E io uso questo termine non per demagogia, ma perché purtroppo sono convinto che le 100.000 imprese meno che rischiamo in questo 2012 purtroppo si accentrano in alcuni settori come le costruzioni o come l'arredo legno, ma poi si accentrano soprattutto poi tra artigiani, commercianti eccetera. Questa premessa era per me obbligatoria. Presidente Merletti, buongiorno. Allora, posso chiederle qual è lo spirito con cui inizia questi suoi incarichi? Con la consapevolezza del momento difficile, con grande senso di responsabilità, preoccupazione che abbiamo un po' tutti in Italia, imprenditori, ma per noi vuol dire anche famiglie, perché la nostra impresa a volte non si riesce a capire dove inizia e dove finisce rispetto alle nostre famiglie, quindi valore per l'impresa, per la persona, ma anche per le famiglie. La preoccupazione è tanta, però andiamo avanti perché questa è la via. Con senso di responsabilità ovviamente, non con demagogie, con prese di posizione contro. Siamo consapevoli delle difficoltà, a volte facciamo un po' fatica a capire perché i dati lo dicono chiaro, aumentano il sistema fiscale, crescono le entrate, ma paradossalmente si deprime in continuazione la possibilità di lavorare. E io, per l'amor del cielo, il governo forse non ha tutte le colpe, ma da persone di un certo livello culturale, senz'altro più alto del nostro, probabilmente il buon senso fa un po' fatica a esserci. Allora, voi avete rilasciato dei dati 2 giorni fa che fanno riflettere, perché le entrate fiscali sono aumentate di quasi 25 miliardi nel solo 2012, cioè al ritmo di 47.000 euro al minuto. Sì. Hanno raggiunto il livello quasi il 45% del PIL, sono aumentate del 2,2% in un solo anno. Questo significa per le imprese che in buona sostanza, dalla vostra indagine che avete fatto insieme all'ISPO, l'aumento delle tasse costringe il 58% delle imprese a chiedere prestiti e dilazioni di pagamenti, e il 61% rinuncia a investire e ritarda ulteriormente purtroppo i pagamenti ai fornitori, che sono una catena poi di conseguenze negative per tutti. Allora, in queste condizioni lei dice: io non voglio, appena detto, fare il demagogo contro il governo, ma perché il fisco purtroppo è la leva con cui, rispetto agli altri paesi euroscassati, i governi italiani hanno fatto più col fisco che chiunque altro. Beh, direi assolutamente sì, se pensiamo che tra il 2005 e il 2013 l'incremento delle entrate fiscali assorbe il 97,3% del PIL, sono numeri che fanno rabbrividire, perché non si può pensare. Beh, noi abbiamo una sensazione, mi creda, che non si facciano agevolazioni per il lavoro, si fa fatica a capirlo, però si dice: bah, vabbè, insomma, il momento è difficile, stiamo lì un attimino. Ma questa sensazione che adesso abbiamo è quella che sia effettivamente contro, tanto è che il governo addirittura permetterà ai comuni per il 2013 l'aumento dello 0,3 ulteriore sull'IMU, che andrà ha comunque una quota parte al governo, ma una parte allo Stato, quindi una parte resterà anche ai comuni. Mi sembra che questa aggiunta sia perlomeno molto discutibile. Se continuiamo a tassare e a crescere il costo del lavoro in Italia, e poi mettiamoci la burocrazia e chi più ne ha più ne metta, e tutti i vari vincoli. Io credo che l'attrattività del nostro paese, al di là degli sforzi che fa il primo ministro quando si reca all'estero, soprattutto per rendere attrattivo il nostro paese, qualche ragionevole dubbio a me onestamente, a noi onestamente viene, insomma. Dovesse indicare un paio di cosette per renderle meno stretto al collo dei suoi associati, non lo scorsoio della crisi, sulle quali nel breve termine sia possibile individuare un'alternativa concreta di finanza pubblica rispetto a questa tutta tasse, che cosa ci direbbe? Guarda, le vie sono molteplici, basterebbe guardare una volta tanto cosa hanno fatto all'estero, perché uno degli altri problemi in Europa, senza andare poi più tanto lontano, uno degli altri problemi è l'accesso al credito. Cosa ha fatto Cameron in Inghilterra, piuttosto ancora Sarkozy in Francia, una banca per le piccole imprese, con dei percorsi, diciamo, diversi o agevolati per avere credito. Qui non lo si fa, addirittura noi avevamo, lei ben, probabilmente ricorda, a Tiglian Cass, si decise di azzerarla, perché quella quei denari lasciati erano soldi che dovevano servire a ripianare un po' un buco di 4.000 miliardi di vecchie lire di una banca, la BNL d'Atlanta. Però questo è quello che è stato fatto, un primo percorso. E poi sulla detassare il lavoro, al di là sulla produttività, che vabbè, comunque qualcosa produrrà, ma è un accordo fra le parti. Io credo che se si vuole effettivamente ridistribuire e far ripartire questo paese, la prima cosa da fare è detassare il lavoro e detassare nel limite possibile anche le imprese, se no alla fine non si va da nessuna parte. Queste sono le uniche vie, le uniche cure che poi vediamo. Poi noi dobbiamo fare del nostro, perché la dimensione di impresa, l'ha detto lei prima, anche se non dobbiamo sentirci colpevoli se in Italia non ci sono grandi imprese, perché sta lì il problema, non sta per il grande numero delle piccole, il problema sta che non ci sono le grandi imprese, e casomai chiedersi perché. Esatto. Noi ovviamente per affrontare certi mercati, indubbiamente, anche per così esperienze maturate di persona, è la dimensione d'impresa, quindi affrontare i mercati e concorrere fra le imprese, non in concorrenza, ma correre assieme per raggiungere gli obiettivi e raggiungere i mercati, che sono mercati in questo momento non certamente nel nostro paese, ma potrebbero anche esserlo. Allora, io ringrazio Giorgio Maretti per essere stato con noi. 3 pillole di osservazioni per rendere chiaro a chi ci ascolta come e quanto sono d'accordo con quello che ha appena detto Giorgio Maretti. Trovate oggi sui quotidiani le notizie su come il Fondo Strategico Italiano di Cassa Depositi e Prestiti utilizzi denaro per rilevare la quota in generale di Banca d'Italia. Ecco, questo è esattamente il tipo di utilizzo che non serve di strumenti pubblici come Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbero invece dare la garanzia e occuparsi, per esempio, dei pagamenti diretti del debito commerciale occupato dallo Stato con i suoi fornitori, invece che occuparsi dei conflitti di interesse delle grandi quotate. Non capisco perché quella quota non possa essere stata devoluta a diluizione attraverso cessioni sul mercato, la quota di Banca d'Italia. La Banca d'Italia non può tenere la quota in generale, perché diventa competente della vigilanza anche sulle assicurazioni come generale dall'inizio dell'anno, e si pensa al capitale pubblico. Cosa c'entra il capitale pubblico per questo, quando noi abbiamo ben altro tipi di impieghi che bisognerebbe fare in quel modo? Secondo, l'osservazione di Merletti sulle grandi imprese che mancano sono giuste. Chissà come e perché, infatti, le grandi imprese del nostro paese non sono affatto quelle che hanno la maggiore redditività del capitale, perché sono le medie ad avercela incomparabilmente maggiore, come ci insegna la raccolta storica dei dati di RS, di Ricerca e Sviluppo, cioè la società che fa da ufficio studi di Mediobanca. Andatevele a vedere e li capirete perché negli anni il numero delle grandi imprese italiane è caduto nelle graduatorie internazionali, perché mal gestite. Questa è la verità: mal gestite, come tante volte le loro vicende, sto parlando delle maggiori quotate, ci hanno mostrato sotto gli occhi: estrazione di valore, improprie cointeressenze, eccetera, eccetera, eccetera. Le medie, scendendo come classe dimensionale, hanno invece una redditività, una patrimonializzazione migliore. Sono lì, e lì il segmento più produttivo della impresa italiana, il che significa appunto che Merletti su questo ha ragione. Quanto infine, terza osservazione, a una strategia credibile di abbattimento del fisco sull'impresa, la mia opinione è appunto che andate a vedere sul sito www.firmanaldeclino.it. I primi tre punti sono abbattimento del debito tramite cessione di attivi pubblici, perché questo rende possibile una manovra su spesa e tasse un po' meno ambiziosa di quella fatta dai tedeschi in 5 anni dal 2002 al 2007. E allora, con 5 punti di pressione fiscale in meno a fronte di 6 punti di spesa corrente in meno, non in welfare, non si tocca, ma 5 punti di pressione fiscale in meno in 5 anni, si può far levare tutta l'IRAP, ed è un terzo di questi 100 miliardi, e per due terzi abbattere il cuneo fiscale. Di questo ha bisogno il Paese. Chiedetevi se queste sono le proposte concrete su cui si sta ruotando il confronto in questo tumultuoso e tutto politicien esito di questa legislatura. This is the end, la dedico ai radioascoltatori che da quando è tornato Berlusconi hanno ripreso belligerantemente a bombardarmi, dicendo che qui si lavora per la patrimoniale. È inutile che io dica alcunché, io lavoro per Vendola, io lavoro per i Rossi. È incredibile come a tanto tempo alle distanza i fan convinti che Berlusconi sia una vittima, che Berlusconi non abbia perso per sua incapacità credibilità nazionale e internazionale, continuino a essere così attivi, per così dire. Loro vedono il mondo spaccato in due, e in questo eroe, il supereroe, in questo mondo spaccato in due, il Capitan Italia, il fumettista degno forse di quel tipo che va in giro con uno stura lavandini in testa, che si vede ogni tanto in un programma di grande intrattenimento la sera su Canale 5 prima del telegiornale, e per loro resta Silvio Berlusconi a onta di qualunque legge di gravità, nel senso che è quella che attira verso il basso i gravi, per così dire, verso il basso, capito, non verso l'alto. Ce ne sono tanti, ce ne sono ancora tanti, sì, loro sono convinti che Berlusconi sia l'unica chiave per tenere a bada chi vuole, quindi chi non è con lui è per la patrimoniale. Scusate, io ho già dato, non perché fossi con Berlusconi all'inizio, perché questo è meglio che gli ascoltatori se lo ricordino, basta andare a vedere, nel 94 stavo con quelli che hanno fatto Alleanza Democratica, ma per il semplice fatto che oggi, per chi è convinto di fare meno spesa, meno tasse e abbattimento del debito pubblico, Berlusconi è l'ostacolo che rende agibile queste idee. Avendo lui preso i voti sempre per questo, avendo sempre fatto i cavoli suoi al contrario, bisogna su questo essere netti. Se dopo tanti anni non ce l'avete ancora per chiaro, fate come volete, scegliete uno che infatti butta giù Monti, lo tira su, poi dice che è in campo, poi no, poi dice la Lega vieni con me, poi dice la Lega solo con me, ma anche se io non ci... Cioè, avete un'idea dopo 18 anni che merita come commento? Cosa posso dirvi? Sullo stesso piano c'è Roberto Benigni per me. Ecco, il problema è che per voi invece non è così, per alcuni di voi, tanti di voi. E ci dite anche, ma come si fa? Lui prende i voti, voi non li prendete. Ma finché voi rimarrete su quello schema, siccome siete voi che dovete decidere se andare a votare oppure no, siete voi, capite? Siete voi che decidete che è così. Per me, guardate, il mestiere non voglio cambiarlo, dovunque lo farò, è questo il mio mestiere, fare l'agitprop, mettervi dei dubbi, farvi riflettere che il problema non è Depardieu, ma è la pressione fiscale che aumenta di uno Stato che oggi è peggio di quello di Luigi XIV, perché sotto Luigi XIV il contribuente aveva più diritti di quelli che avete voi, e voi siete qui a occuparvi di Berlusconi invece. Ma non mi viene da ridere. Va bene, sentiamo Elena da Reggio Emilia. Elena, prego. Buongiorno, eccoci. Buongiorno Giannino. Spezzo un po' l'argomento che sta trattando facendo una domanda. Sì. Per lavoro sono spesso a contatto con ditte cinesi. Sì. Mi sono fatta questa domanda: come mai la loro espansione ha superato quella delle nostre ditte artigiane? E una cosa ho notato: la loro gestione anche proprio della contabilità è molto offuscata e spesso affidata a commercialisti sui generis. Sì. Perché si permette questo, che è la luce? Elena, se si permette questo è sbagliato, cioè voglio dire, visto che l'apparato repressivo dello Stato ci riguarda tutti da vicino, bisogna invitarlo a fare anche questo. Secondo Elena, guardi che lo stato di apparente benessere di molte di quelle imprese deriva dai fenomeni attraverso i quali si alimenta la nascita e la riproduzione attraverso prestiti agevolati che hanno un canale tutto parallelo con il mercato ufficiale, che è lo stesso che gestisce l'immigrazione di origine della Cina. Quindi c'è un mercato finanziario parallelo in questo, e che spiega le risorse al di là della contabilità di quello che c'è nei bilanci, perché queste sono le forme attraverso cui le imprese commerciali, artigiane, eccetera, eccetera, cinesi si localizzano, nascono con chi controlla flussi da aree delimitate di provenienza e controlla i flussi finanziari sia in investimento che in uscita. Quindi questo spiega perché in realtà il fenomeno di proliferazione continua. Non ho detto che sia tutta la luce del sole, lo Stato faccia quello che deve invece che solo contro di noi. Simone, dalla provincia di Rimini, prego. Buongiorno dottor Giannino, scusi l'emozione. Mi chiedevo una cosa, per poter eliminare e debellare l'evasione fiscale, ridare potere d'acquisto alle buste paga, se è stato per usare in detrazione tutto ciò che uno spende. Simone, ho capito la domanda perché si sente poco, quindi lei dice conflitto di interesse in relazione a tutto ciò che uno spende. Io la invito a comprare il libro che è uscito un mese e mezzo fa di Bortolussi, quello della CGA di Mestre, che quindi non è sospettabile per così dire di essere per lo Stato ladro del fisco. Nel libro di Bortolussi, che è tutto dedicato al conflitto di interesse, si smonta un po' questo luogo comune che avete in testa. È un luogo comune infondato e non è vero che chi ve lo spiega è al servizio degli evasori fiscali. Leggete il libro di Bortolussi, temo che dovremmo dedicarci una puntata sopra così ve lo spieghiamo a tutti una volta per sempre. Quindi lo dico Alessandro Marco Tulli che ci ascolta, il mio braccio destro che non ringrazio mai, io poi non ringrazio più neanche chi sta in regia, tutti quelli grazie a cui sono andato in onda in questi anni, sono loro la vera spina dorsale di questa radio. Posso dirvi, sono molto più di noi e bisognerebbe veramente, prima di andarmene mi prendo un'ora intera per farne parlare un po', perché voi non li ascoltate e non li sentite, ma qua la spina dorsale, con tutto rispetto ovviamente per i colleghi che fanno i giornali radio, dei programmi, sono loro, sono quelli che si fanno venire in mente le idee, sono quelli che qui, i tecnici, ci consentono di andare in onda pur avendo degli apparati su cui qui l'azienda editoriale ha risparmiato, e io non discuto, si devono inventare tutto loro, mettendoci le spine, gli spinostri, le dite. Quando giriamo ci sono degli apparati che ci fanno sorridere perché sono un po' arcaici, ciò malgrado è grazie a loro che qua Radio 24 da anni è nei vostri cuori, non grazie a me. Quindi per una volta bisogna prendermi una puntata prima che sparisco e un po' di loro trovo il modo di rendere grazie per tutti i giorni che non li ho ringraziati, perché meritano davvero in ginocchio ed è la forza di questa radio. Sono i ragazzi che lavorano, vi posso garantire, a quattro soldi per farsi venire le idee dei programmi e le telefonate, e i tecnici che tutti i giorni fanno miracoli come i piccoli bambini olandesi delle favole quando hanno l'enorme diga con i buchi dell'acqua che passa perché non ci sono i soldi per non tenerla. Oh, non è una critica, è un riconoscimento a loro che se lo merita. Allora, Marco da Brescia, torniamo sul tema di Depardieu. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno Giannino. Tu sei per Depardieu o meno? Scusi? Sei per Depardieu o meno? Bisogna andarsene oppure no quando è troppe tasse? Per Depardieu. Io viva Depardieu. Bravo. Viva Depardieu e spero che restituisca il passaporto. Come ha detto, infatti, chissà che un giorno o l'altro non dobbiamo pensare a qualcosa di simile. Io ho già detto pubblicamente che se mi arriva la cosa per la patrimoniale, contro la quale mi sto battendo, io invito tutti a vedere il bel giorno in cui me ne vado fuori l'Agenzia delle Entrate e autopubblicamente mi denuncio perché sono contrario e non la pago, e mi sobbarcherò anche agli effetti della legge tributaria penale. Però io sono contrario, io penso che lo Stato ci stia dilapidando per l'utilizzo che fa delle sue risorse, non sono favorevole ad altre tasse. Tito da Modena, prego Tito. Salve dottor Giannino, sì. Un chiarimento in parte superato dalla discussione che sì. C'è stata. Desideravo sapere se la tassazione del 75% comprende tutto il reddito o solo quello che cede il milione di euro, se questa tassa è per questo periodo di crisi o no l'imposta per il momento, la sovraliquota è stata messa dal governo attuale e non è stata definita a tempo, come tutte le aliquote è un meccanismo di marginalità, come tutte le aliquote di un sistema fatto da aliquote proporzionali e progressive, quello che eccede quella soglia si paga per quell'aliquota marginale, quello che sta sotto si paga, credo che sia il 49% l'aliquota più bassa fino al milione di euro, da non mi ricordo se 120.000 o 100.000 in Francia o 140.000, questo sono sincero, quindi non voglio dire stupidaggini, però è ciò che eccede quella cifra che va al 75%. Nel caso di un attore famoso come Depardieu, capisci che però ce n'è parecchio oltre quel milione. Andrea da Treviso, prego Andrea. Sì, grazie Zanino, grazie a voi. Innanzitutto come speriamo che Monti scenda in campo e come piccoli risparmiatori truffati Parmalat, dopo 10 anni noi diciamo che lottando con le unghie contro i francesi che hanno portato i capitali della Parma in America, noi diciamo che Depardieu bisogna mettere in carcere e buttargli le chiavi. Addirittura. Come e... quello che ha dato quei 14, quasi 14 miliardi a Benigni di sera. Ho capito, allora, ma Andrea, ma non è che basta essere francese per cui... No, io rispetto il tuo punto di vista, ma non lo condivido. Allora, mi dispiace per Luca da Livorno, non siamo in tempo per fare il collegamento anche con lui. E a questo punto vi do appuntamento a domani. Grazie ancora una volta di essere stati con noi. Mm.